Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Quando, alla luce fosca di una specie di lanterna cieca, io mi guardai in un pezzetto di specchio che si trovava appeso nel ridotto, rimasi così impressionato dal mio aspetto e dall'idea della terribile realtà di cui ero l'incarnazione che un tremito violento mi prese e a stento potei riacquistare l'energia necessaria per condurre a fine il mio compito. Era indispensabile agire con risoluzione. Insieme a Peters risalì sul ponte. Là, visto che non c'era nulla di nuovo, tutti e tre scivolammo lungo la murata fino alla scala che metteva nelle cabine. La porta del quadrato era socchiusa e puntellata la serratura contro il primo gradino in modo da impedire che venisse spinta all'improvviso. Non ci fu però difficile esaminare l'interno della sala attraverso la fessura dove la porta si incardinava. Era una fortuna che avessimo rinunciato a tentare l'attacco di sorpresa, poiché tutti là dentro stavano in guardia. Uno solo dormiva, ma coricato ai piedi della scala con un fucile al lato. Gli altri erano seduti qua e là, su dei materassi che avevano tirato fuori dalle cuccette e gettati sull'impiantito. Essi si trovavano intenti a conversare di cose serie, e sebbene a giudicare da due fiaschi vuoti e dalle ciotole di stagno sparse dappertutto avessero fatto baldoria, non erano ubriachi quanto di solito. Tutti apparivano armati di coltelli, uno o due di pistole, e numerosi fucili si scorgevano posati su una cuccetta a portata di mano. Come non avevamo deciso ancora nulla di quello che dovevamo fare, eccetto che, venuto il momento dell'attacco, avremmo cercato di paralizzarli con l'apparizione di Rogers, restammo per un po' in ascolto dei loro discorsi. Essi stavano discutendo intorno ai loro piani di pirateria, ma quello che riuscimmo ad intendere fu solo che si proponevano di unirsi con l'equipaggio della goletta Hornet, impadronendosi, se possibile, della goletta stessa come primo passo per un tentativo su più vasta scala, dei cui particolari non ci fu possibile afferrare una parola. Uno di essi nominò Peters e il secondo gli rispose a bassa voce qualcosa che ci restò ignoto. Quindi, a voce più alta, soggiunse di non capire che avesse da fare tanto spesso nel castello di Prua col marmocchio del capitano e che quanto più presto fossero filati tutti e due fuori di bordo, tanto meglio sarebbe stato. A queste parole nessuno rispose, ma noi comprendemmo senza difficoltà che l'insinuazione era stata accolta con piacere da tutta la banda, da Jones in particolar modo. Una viva agitazione allora mi prese, specie a vedere che Augustus e Peters non sapevano cosa decidere. E però ero risoluto a vendere al più caro prezzo possibile la mia vita e a non lasciarmi dominare da alcun timore. Lo spaventevole fracasso prodotto dai muggiti del vento e dai colpi di mare che spazzavano la tolda ci impediva di udire, durante le raffiche, quello che dicevano. Fu tra una raffica e l'altra che sentimmo il secondo ordinare a qualcuno di recarsi a prua e di dire a quei figli di puttana che venissero in sala, così perlomeno avrebbe potuto tenerli d'occhio, siccome non intendeva tollerare segreti a bordo. Per fortuna nostra, il beccheggio della nave era tanto forte in quel momento che non fu possibile mettere l'ordine subito in esecuzione. Il cuoco si levò, sì, dal suo materasso, ma uno spaventoso colpo di rullio, che a me parve si volesse portar via l'alberatura, lo mandò a sbattere la testa contro la porta d'una delle cabine di babordo, con una forza tale da spalancarla, il che aumentò la confusione. Nessuno di noi tre, fortunatamente, era stato rovesciato, e ci ritirammo in fretta e furia nel castello di prua, onde improvvisare qualche piano d'azione prima che comparisse il messaggero. Ma quegli si limitò a mettere il capo fuori della porta, così non s'accorse della mancanza di Allen e passò a squarciagola l'ordine del secondo. Peters, con voce camuffata, gli gridò in risposta: «Va bene, va bene!» E il cuoco, senza alcun sospetto, se ne tornò subito da basso. I miei due compagni mossero allora coraggiosamente a poppa e penetrarono nel quadrato. Peters richiuse la porta allo stesso modo in cui l'aveva trovata. Il secondo li ricevette con finta cordialità e disse ad Augustus che, data la sua buona condotta di quegli ultimi giorni, poteva installarsi nella sala e considerarsi d'allora in poi come uno di loro. Riempì quindi a metà un bicchiere di rum e glielo fece bere. Io vedevo e sentivo tutte queste cose, poiché avevo seguito i miei amici sino alla porta e ripreso il mio posto d'osservazione di poc'anzi. Avevo con me i due manichi di pompa, uno dei quali tenevo pronto al bisogno, posato accanto alla soglia. M'ero situato in modo da non perdere nulla di quanto accadeva nella sala e mi sforzavo di raccogliere tutto il mio sangue freddo per la discesa fra gli ammutinati, non appena Peters, come convenuto, me ne avesse dato il segnale. Egli cercò a un certo punto di portare il discorso sugli episodi di sangue seguiti alla rivolta e a poco trascinò gli uomini a parlare delle mille superstizioni correnti fra i marinai. Non mi era possibile udire ogni cosa di quello che dicevano, ma vedevo bene dai loro volti quale effetto sortisse la conversazione. Il secondo si trovava in preda a una evidentissima agitazione, e quando poco dopo qualcuno ricordò lo spaventoso aspetto del cadavere di Rogers, mi parve quasi che stesse per cadere svenuto. Peters allora gli chiese se non credeva meglio gettarlo fuori di bordo, siccome non c'era vista più orribile di quel corpo che si dimenava tra gli ombrinali. Il miserabile diede un sospiro convulso e lentamente girò lo sguardo intorno a sé sopra i suoi compagni, quasi volesse supplicare qualcuno di andare a farlo. E però nessuno si mosse, chiaro com'era che tutta la banda si trovava al più alto grado di nervosismo. Peters fece allora il segno convenuto. Subito io spalancai la porta e, disceso senza fiatare, mi rizzai all'improvviso in mezzo alla compagnia. L'effetto prodigioso che questa inattesa apparizione produsse non potrà sorprendere nessuno dei miei lettori se si considerano tutte le circostanze. Di solito, in casi del genere, rimane sempre qualche scintilla di dubbio nell'animo dello spettatore circa la veridicità della visione che gli sta davanti. Un certo minimo di speranza, per quanto debole possa essere, che si tratti di una mistificazione e che l'apparizione non sia davvero quella di un risorto dal regno delle ombre. Non è esagerato affermare che tali rimasugli di dubbio hanno quasi sempre accompagnato questa specie di apparizioni e che l'agghiacciante terrore da esse talvolta suscitato deve attribuirsi, anche nei casi più sensazionali e più angoscianti, alla paurosa supposizione che possa essere vero, piuttosto che a un fermo convincimento della loro realtà. Ma nel caso in questione si comprenderà che nell'animo di quei briganti non poteva esserci l'ombra di una ragione per dubitare che non si trattasse proprio di Rogers, risorto nel suo ripugnante cadavere, o perlomeno del di lui fantasma. L'isolamento del brigantino e l'impossibilità, per via della tempesta, di essere abbordato da qualcuno riducevano le speranze di una mistificazione a così stretti limiti che essi dovettero abbracciarne tutte le probabilità d'un colpo solo. Da 24 giorni che si trovavano in mare non avevano avuto comunicazione con alcuna nave eccetto qualche scambio di segnali a voce. D'altra parte, tutto l'equipaggio, tutto secondo loro, dopo che nessuno poteva minimamente sospettare la mia presenza a bordo, era riunito lì, ad eccezione di Allen, l'uomo di quarto, la gigantesca statura del quale, 6 piedi e 6 pollici, era troppo familiare ai loro occhi per pensare, sia pure un istante, lui, nei panni di quell'apparizione. Ove inoltre si considerino il carattere terrificante della tempesta, e la natura della conversazione provocata da Peters, la profonda impressione prodotta quella stessa mattina dall'aspetto ripugnante del cadavere vero e proprio, la perfezione del mio travestimento e la luce, vacillante ed incerta, siccome la lanterna della sala sbatteva di qua e di là, nella quale mi vedevano confusamente in una specie di ambiguo alone, non ci sarà da sorprendersi se il nostro trucco raggiungesse un effetto assai più grande di quanto noi stessi avessimo sperato. Il secondo saltò su dal materasso sul quale se ne stava sdraiato e, senza proferire una sillaba, ricadde indietro fulminato sull'impiantito per essere poi rotolato a sottovento da un colpo di rullio, come un ceppo. Dei sette che restavano, solo tre dimostrarono fin dalla prima una certa presenza di spirito. Gli altri quattro, come fossero inchiodati, non si mossero per un po' dai loro posti, tali che i miei occhi non videro mai vittime del terrore e della disperazione più di essi pietosi. I soli ad opporci resistenza furono il cuoco, John Hunt e Richard Parker, ma non si difesero che debolmente e senza risoluzione. I primi due vennero isso fatto spacciati da Peters, mentre io abbattevo Parker con un colpo alla testa del manico di pompa che avevo portato meco. Nel frattempo Augustus s'era impadronito di uno dei fucili e lo scaricava in pieno petto di un altro degli ammutinati, Wilson. Così dei sette non ne restavano più che tre, ma avevano avuto intanto il tempo di rimettersi dallo stupore e magari cominciavano a rendersi conto di essere stati vittime di qualche stratagemma. Si diedero difatti a combattere con risolutezza e furore, e se non fosse stato per lo straordinario vigore di Peters, sarebbero riusciti senza dubbio ad avere infine ragione di noi. Erano Jones, Greeley e Absalom Hicks. Jones aveva di già atterrato Augustus e colpitolo ripetutamente al braccio destro, e siccome io e Peters eravamo occupati in quel momento coi nostri rispettivi avversari, stava quasi per mandarlo all'altro mondo allorché sopraggiunse un amico sull'aiuto del quale non avevamo contato. L'amico non era altri che Tiger. Con un sordo brontolio esso saltò dentro alla sala proprio quando Augustus era per cedere, e scagliandosi addosso a Jones lo inchiodò in un attimo al pavimento. Il mio compagno però era ridotto in condizioni troppo gravi per esserci di qualche aiuto. Io, d'altra parte, ero tanto impacciato dal mio travestimento che non potevo fare molto, ma il cane non lasciava la sua presa sulla gola di Jones e Peters era forte abbastanza per sbrigarsi anche da solo dei due uomini che restavano, ciò che senza dubbio avrebbe fatto più presto se non fosse stato intralciato dallo spazio angusto nel quale doveva muoversi e dalle tremende rollate del brigantino. Impadronitosi di uno dei pesanti sgabelli che si trovavano sparsi per la stanza, egli sfondò il cranio a Greeley, che era sul punto di tirarmi una fucilata, e subito dopo, avendolo un colpo di rullio gettato addosso a X, afferrò questi per la gola e nient'altro che col vigore delle sue dita lo lasciò strangolato sull'istante. Così, in minor tempo di quanto ne abbia impiegato a raccontarlo, ci trovammo padroni del brigantino. Uno solo dei nostri avversari era rimasto vivo, Richard Parker, il quale, come si ricorderà, avevo abbattuto io con un colpo del mio manico di pompa. Ora giaceva immobile presso la porta della cabina sfondata dal cuoco, ma appena Peters l'ebbe toccato col piede, parlò, chiedendo grazia. Io l'avevo soltanto stordito, sicché ora non presentava che una leggera ferita alla testa. Come poi si fu levato in piedi, ci limitammo per il momento a legargli le mani dietro la schiena. Il cane ringhiava sempre addosso a Jones, ma a uno sguardo attento vedemmo che questi era già morto, col sangue che gli sgorgava a fiotti da una ferita profonda alla gola, prodottagli senza dubbio dalle zanne taglienti dell'animale. Poteva essere l'una del mattino e il vento soffiava con furia spaventosa. Si sentiva che il brigantino faceva sempre più fatica, per cui diventava necessario cercare in qualche modo di alleviarne lo sforzo. Quasi ad ogni colpo di rullio imbarcava ondate da sottovento e siccome io nel discendere avevo lasciato il boccaporto aperto, qualcuna di esse aveva allagato la sala. Tutta la murata di babordo era stata portata via, così pure la cambusa insieme al canotto dal cassero. Intanto l'albero maestro scricchiolava e si scuoteva tutto in modo da farci capire che non avrebbe tardato molto a distaccarsi. Per fare un po' più di posto allo stivaggio nella cala inferiore, il piede di quest'albero era stato fissato tra i due ponti, sistema riprovevole, al quale pur ricorrono spesso certi ignoranti di costruttori, di modo che c'era sempre un immediato pericolo che si svellesse. Inoltre, a coronare le difficoltà nelle quali eravamo, trovammo che nell'arcipompa l'acqua arrivava a non meno di 7 piedi. Lasciati allora i cadaveri da basso, corremmo, portando ben inteso Parker con noi perché ci aiutasse a mettere in azione le pompe. Fasciammo al braccio ad Augustus come meglio ci fu possibile e lui fece tutto quello che era in grado di fare, ben poco, in vero. Ad ogni modo risultò che solo per impedire alla via d'acqua di aumentare occorreva tenere una pompa in azione continua. In 4 come eravamo si trattava di una fatica troppo gravosa e però ci sforzammo di non scoraggiarci e aspettammo l'alba con ansia nella speranza di alleggerire allora il brigantino tagliando via l'albero maestro. La notte trascorse in quella terribile ansietà e quando infine spuntò il giorno la tempesta non si era per nulla calmata, né dava alcun segno di essere sulla via di calmarsi. Portammo i cadaveri sopra coperta e li gettammo fuori di bordo. Quindi pensammo a sbarazzarci dell'albero maestro e, fatti i preparativi necessari, Peters, raccolte le asce in sala, si mise ad attaccare l'albero mentre io, Augustus e Parker badavamo ai tiranti e alle drizze. Come poi il brigantino dava una paurosa rollata sotto vento, fu lanciato il segnale di tagliare i sostegni e l'enorme massa di legno e sartiame cadde in mare, sbarazzando la nave senza arrecarle nessuna avaria. Si vide allora che il brigantino faceva assai meno fatica di prima, eppure la nostra situazione restava sempre d'un'estrema precarietà, tanto che, a dispetto di tutti i nostri sforzi, non riuscivamo a fronteggiare la via d'acqua senza l'aiuto di ambedue le pompe. E il servizio che Augustus poteva renderci era di assai scarsa importanza. Ad accrescere la nostra disperazione, un'ondata enorme che prese il brigantino da sopravvento lo fece sbandare di alcuni gradi e un'altra ondata, prima che avesse ripreso la sua posizione giusta, gli si ruppe tutta addosso e lo coricò sul fianco. Allora la zavorra, lo stivaggio sballottava di qua e di là ormai da un pezzo, scivolò in massa sul lato di sottovento e per qualche secondo credemmo che nulla potesse più salvarci dall'andare a rovescio. Tuttavia, di lì a poco ci riassestammo in qualche modo, ma siccome la zavorra era rimasta ferma a babordo, si stava così inclinati che era inutile pensare a lavorar di pompa, cosa che del resto non avremmo potuto fare più a lungo nello stato in cui ci eravamo ridotte, tutte piaghe orribilmente sanguinanti le mani. Sebbene Parker ce lo sconsigliasse, noi passammo allora ad abbattere l'albero di trinchetto e vi riuscimmo con grande difficoltà a causa della nostra posizione inclinata. Cascando in mare, esso si trascinò dietro il bompresso, sicché il brigantino si ridusse né più né meno nelle condizioni di un pontone. Sino a questo punto ci si era potuti rallegrare di non aver perso la scialuppa, scampata senza danno a tutti quei colpi di mare. Ma questo piacere ci venne presto tolto, dappoiché, una volta partito l'albero di trinchetto e con esso il trinchetto medesimo grazie al quale il brigantino s'era potuto mantenere in equilibrio, ogni ondata cominciò a rompersi tutta su di noi e in 5 minuti il ponte fu spazzato da un capo all'altro, la scialuppa e la murata di tribordo strappate via e persino l'arganello ridotto in pezzi. Non avremmo potuto trovarci in situazione più penosa. A mezzogiorno parve che la tempesta accennasse a calmarsi un poco, ma fummo amaramente delusi nella nostra speranza, imperocché non ebbe a calmarsi che per qualche momento, trascorso il quale si scatenò con nuovo e accanito furore. Alle 4 del pomeriggio non ci riusciva più possibile mantenerci in piedi, tanta era la violenza del vento, e quando la notte sopraggiunse non ci restava l'ombra d'una speranza che il vascello resistesse sino all'indomani mattina. Verso mezzanotte l'acqua era salita sin quasi al falso ponte. Poco dopo andò perso il timone e il colpo di mare che se lo portò via sollevò la poppa tutta fuori dell'acqua, di modo che, ricadendo, il brigantino ricevette una scossa tremenda, come avesse dato dentro una secca. Secondo i nostri calcoli, il timone avrebbe dovuto resistere in tutti i modi sino all'ultimo, siccome era più solido dell'ordinario e assicurato in un modo che non avevo né ho più visto uguale. Tutto lungo il filo del pezzo mobile correva una serie di potenti arpioni di ferro, cui una identica corrispondeva lungo il costone di poppa. Una massiccia verga di ferro fucinato passava entro questi arpioni e il timone, pur giocando liberamente sulla verga, restava attaccato al palo di poppa. Si può giudicare la forza tremenda dell'ondata che se lo portò via dal fatto che gli arpioni infissi e ribaditi nel palo da una parte all'altra furono estirpati uno per uno dal legno. Si era appena avuto il tempo di respirare dopo questa scossa tremenda ed ecco una delle più spaventose ondate che io abbia mai viste. Venne ad abbattersi perpendicolarmente sul ponte, spazzando via il casotto della scala, sfondando i boccaporti e colmando d'acqua la nave sino all'ultimo pollice.